Allora, buonasera. Cominciamo. Intanto vi presento Fabio La Piana e Luciano Neri. E presentiamo questi due libri che avrete là vicino, li metto davanti a loro così li vedete meglio, che sono appunto Cose altre cose e Autoreverse. Poi vediamo anche di parlare, a cominciare dal titolo di entrambi i testi. Io un po' alternerò le domande a loro due. Però prima gli darei la parola. Direi semplicemente due cose iniziali, cioè che si tratta di titoli 16-17 dei chapbook seconda serie, questa piccola ma preziosissima collana dell'edizione TIC, e si tratta di due libri abbastanza diversi uno dall'altro, se non altro nella forma, perché il libro di Luciano Neri è in prosa, quello di Fabio La Piana è in versi. Credo che molte analogie forse verranno fuori poi nel corso della chiacchierata con loro due, però direi che quantomeno si muovono entrambi in un'area che con estrema approssimazione potremmo definire scrittura di cerca, cioè scritture non legate necessariamente né alla, nel caso della prosa, alla narrativa più mainstream, cioè fondata sulla mitologizzazione della trama, del personaggio, eccetera, anche se ci sono effettivamente, poi li sentirete, alcuni microspunti narrativi, e dall'altra parte sentirete una poesia lontanissima dal classico elemento confessional che va molto di moda oggi, per cui c'è uno che racconta gli affari propri e fondamentalmente dice cose fondamentali secondo lui sul mondo. In realtà poi scoprirete che il libro di Fabio La Piana, secondo me, ha una vocazione, come dire, quasi enciclopedica, nonostante le piccole dimensioni. E diciamo che sono due testi che mettono in campo degli elementi abbastanza forti, appunto, dicevo, nel suo caso, nel caso di Fabio, quasi una sorta di vocazione alla classificazione del mondo, dall'altro una lunga riflessione sul rapporto spazio-tempo, insomma, quindi due cose tutt'altro che secondarie. Detto questo, prima quindi delle domande, comincerei a fargli leggere in maniera che possiate assaggiare un po' i testi di cui parleremo stasera. Comincia Luciano Neri da Autoreverse. Bene, buonasera. Beh, avendo come titolo Autoreverse, potrei cominciare anche dalla fine oppure dall'inizio. Però comincio dall'inizio. La prima sezione si intitola Landslides. È composta da 9 testi. Magari salto. La notte dopo è quella prima. Il tubo a serpentina con gli oblò senza regolare nitidezza. Lo scivolo a spirale e il ponte sospeso in uno sfondo illimitato. Il campetto in erba sintetica entro le linee bianche di gesso. La torretta merlata. L'esplorazione del boschetto senza un movimento di foglie precedenti e uno di rami successivo. Con in più dei fatti di cui non si era accorto il presente nel sogno durante la giornata al parco del castello. Di fronte a un palazzo d'inverno guardava un uomo, l'inizio di un assalto, e impediva di seguire le riprese dell'evento a un altro, fino al diradarsi della folla. Indietro, fino a una piazza vuota. La goccia d'acqua di nome Reed, di un altro uomo. Oggi i bambini giocavano spensierati al parco del castello. Lo scivolo a spirale, il tubo a serpentina con gli oblò, il ponte sospeso, il campetto in erba sintetica, le linee di gesso del campo appena tracciate, la torretta merlata, l'esplorazione del boschetto. Di sera hanno raccontato la loro giornata come se io non ci fossi stato. La cena davanti era fredda e ci parlavamo come da un vetro. Di notte ho sognato come segue. Lo scivolo a spirale senza regolare nitidezza, il tubo a serpentina con gli oblò, il ponte sospeso in uno sfondo illimitato, il campetto in erba sintetica e la torretta merlata senza un movimento di foglie precedenti, le linee di gesso del campo appena rifatte, l'esplorazione del boschetto senza un vento sui rami successivo, due volte almeno il ponte sospeso, lo scivolo a spirale e l'esplorazione del boschetto, le linee bianche del fuoricampo di gesso sullo sfondo, difficili e illimitati senza regolare nitidezza. Con in più dei fatti di cui la mia presenza non si era accorta durante la giornata al Parco del Castello. Di fronte al Palazzo d'Inverno un uomo è testimone dell'inizio dell'assalto e un altro gli impedisce di seguire le riprese dell'evento e lo spintona fino al diradarsi della folla, fino a una piazza che si sta svuotando. Una vera e propria goccia d'acqua che si è scoperta e che si chiama Reed, l'uomo per l'altro che si riconosce e che un po' gli somiglia. La notte dopo ha sognato la sua presenza, lo scivolo a spirale, il ponte sospeso, il tubo a serpentino con gli oblò, l'esplorazione del boschetto senza linee bianche di gesso successivo precedenti rispetto a uno sfondo illimitato del campo in erba sintetica, con in più dei fatti di cui non ci si era accorti per l'altro che gli somiglia durante la giornata al Parco del Castello. Un uomo è testimone dell'inizio dell'assalto al Palazzo d'Inverno e un altro gli impedisce di seguire le riprese e lo spintona fino al diradarsi della folla, indietro fino alla piazza che si svuota. Una vera e propria goccia d'acqua somigliante di quell'altro uomo che si chiama Reed, che si è scoperto e che un po' si riconosce. Qualche giorno dopo siamo tornati al Parco del Castello per ripercorrere le tracce e i movimenti delle scene, del gioco e del sogno identico liberamente. E i punti delle immagini sgranate hanno respinto come un invasore quello che sembrava fino alle spinte e al diradarsi della folla. Indietro fino alla piazza che si stava svuotando, indietro mentre i bambini in gruppo spensierati continuavano a giocare senza ancora davanti la risoluzione dei contorni di un contrasto, senza ancora regolare nitidezza. Di sera hanno raccontato la giornata al parco davanti ai loro occhi, la cena nel frattempo si era raffreddata e parlavano come da un vetro doppio che assalivano un palazzo d'inverno arrampicandosi da uno stesso vetro. L'ultima notte dormendo non ho sognato, né a ripensarci bene, nessuna pagina che si sarebbe mostrata ancora meno bianca senza alcuna traccia, perché il sogno è rimasto a guardare da dietro allo stesso vetro, attentamente. Qualche settimana dopo ho sognato l'ordine che segue, lo scivolo a spirale manomesso, il ponte sospeso interrotto, il tubo a serpentina con gli oblò sbarrati, senza un precedente rispetto alla loro portata, l'esplosione del boschetto soprastante, l'esplosione della torre merlata, l'incendio al campetto dell'erba sintetica, senza un successivo precedente la sparizione delle linee di gesso del campo isolare dallo sfondo illimitato, con l'aggiunta di fatti di cui la nostra presenza non si era accorta durante la giornata al Parco del Castello. Di fronte al Palazzo d'Inverno, un uomo guarda l'assalto al suo inizio e un altro inibisce le riprese dietro delle sbarre e fa cenno di arretrare fino al diradarsi della folla, fino all'arretramento della piazza che si sta svuotando. Una vera e propria goccia d'acqua in persona di quell'altro uomo somigliante allo specchio di Trotsky che si è scoperto senza ancora una risoluzione del contrasto ai contorni, un po' riconoscendosi. A Wannsee ho sognato il picnic di uno, in tutto somigliante a uno specchio, immerso fino al collo nel laghetto dei cigni che starnazzano e sbattono le ali, la fine dell'amico americano confuso in sovrapposizione che si è scoperto con la scena dell'angelo che osserva le miserie della Sigesoile, indifferita rispetto all'orologio universale, senza ancora una risoluzione del contrasto somigliante un po' ai contorni, senza ancora regolare nitidezza. Mi fermare qui per il momento. Vabbè. Salve a tutti. Per cominciare sì, leggo una, secondo me un po' introduttiva pure rispetto alla situazione di stare qua a parlare. A leggere. Si intitola Stare zitti. Si può anche non dire niente. Si può stare zitti. Non è che si deve dire per forza qualcosa. Non c'è l'obbligo di dire. Non c'è nessun obbligo. Chi l'ha detto che uno deve dire per forza qualcosa? Dove sta scritto? Non c'è scritto da nessuna parte che uno è obbligato a dire qualcosa. Non c'è nessun motivo per obbligarsi a dire qualcosa. Se uno non ha voglia di dire niente, ha il diritto di non dire niente, di starsene al suo posto e fare le smorfie in silenzio. Se uno vuole stare in silenzio a fare le smorfie, le facce, le linguacce, in fin dei conti è un problema suo. Non è una questione di buona educazione. Che c'entra l'educazione? Fare le facce è solo un'opzione. Ci si può grattare una gamba o la testa, giocare con le mani o guardarsi la punta dei piedi e le macchie sui pantaloni o restare tranquilli senza mostrare imbarazzo. In una modalità pensosa, riflessiva, cognitiva, un atteggiamento di tranquilla pensosità è sempre consigliato in questo tipo di situazioni. Ci si sente sempre in dovere di dire qualcosa, si sente la pressione di dover dire qualcosa, c'è sempre questa oppressione che tocca dire qualcosa di importante, che questo è il motivo per cui uno è qui, per tirare fuori qualcosa di importante. In ognuno c'è qualcosa di importante che merita, allora è normale sentire questa pressione, la sentono tutti questa pressione, e se uno si sente invece che non vuole dire niente, si deve sentire in imbarazzo, si sente in difetto, gli viene da grattarsi la testa, di guardarsi le mani, di mettersi le mani in tasca e di guardarsi la punta delle scarpe, di girarsi dall'altra parte, di analizzare il soffitto, la luminosità dell'ambiente. La cosa migliore è sempre quella di mostrare una tranquilla pensosità, un senso di piena proprietà del proprio silenzio, di perfetta stabilità con il proprio non dire. È sempre una questione di convinzione, focalizzarsi sulla convinzione di essere al proprio posto, in equilibrio con la propria condizione di non parlante. E ne leggo un'altra. La tasca di Mario. La tasca sinistra dei jeans di Mario si è bucata. Sono jeans neri, anzi nerastri. Sono i jeans preferiti di Mario. Tutte le cose che prima Mario metteva nella tasca sinistra, ora le deve mettere nella tasca destra. Se la tasca destra è troppo piena, presto si bucherà come la sinistra. Mario ha imparato che ricucirla non serve. Una tasca bucata non si ripara. Una tasca bucata deve essere sostituita. Mario conosce un sarto che fa delle ottime tasche, molto resistenti, delle tasche proprio come si deve. L'unico vantaggio di una tasca bucata, dice Mario, è che quando mi metto le mani in tasca, quando non sa dove mettere le mani, Mario se le mette in tasca, posso toccarmi la coscia e grattarmi, posso molestarmi la carne, ficcarmi le unghie nella coscia se mi va, posso tirarmi i peli, posso anche accarezzarmi le palle e anche il pisello se mi va. Capita che Mario si dimentica che la tasca è bucata e ci mette una moneta. Una volta una moneta gli è finita direttamente nella scarpa. Per recuperarla, Mario si è dovuto fermare e togliersi la scarpa. Le tasche dei pantaloni di Mario si bucano spesso, perché porta sempre troppe cose in tasca. Anche le tasche dei pantaloni di Aldo si bucherebbero se si mettesse in tasca tante cose quante se ne mette Mario. Mario ha sempre troppe monete e monetine in tasca, chiavi e chiavette e portachiavi. Sono tutte cose che pesano nella tasca, ma sono le chiavi e la punta delle chiavi, soprattutto, che logorano i tessuti della tasca di Mario, assieme alle monete e alle monetine che pesano nella tasca di Mario, e alle dita di Mario e alle unghie delle dita di Mario, quando Mario tiene le mani in tasca e giocherella con le chiavi e le monete in tasca e si gratta con l'unghia la pelle della coscia attraverso la tasca, tipica cosa che Mario fa quando aspetta, quando è impaziente, quando cammina su e giù per la stanza, quando misura la stanza come un animale in gabbia, quando è preso dall'ansia e non sa dove metterle le mani, quando si trova in una posizione scomoda, in una posizione fuori posto, in imbarazzo, a disagio, fuori dalla sua zona di conforto, quando è seduto di fronte a qualcuno che lo sta interrogando, quando qualcuno lo guarda senza parlare, quando qualcuno lo fissa in attesa, quando Mario non sa cosa dire, come rompere il silenzio, come approcciare, come cambiare discorso, come trovare le parole giuste per la situazione, quando la situazione diventa stressante, se Mario è un tipo stressato, quando si deve fingere calmo, quando deve ostentare calma, sicurezza, contentezza di essere qui, anche se fa freddo qui, fa molto freddo qui, dice Mario, soffro il freddo, le dita mi si gelano, Mario soffre di cattiva circolazione negli arti, quando fa freddo Mario si mette le mani in tasca, la tasca sinistra dei jeans di Mario è bucata, sono i jeans preferiti di Mario, neri, anzi nerastri. Allora, cominciamo parlando del testo di Luciano Neri. Siccome non vanno più di moda le musiche a sette, forse vale la pena ricordare cos'è l'autoreverse. È sostanzialmente la capacità del registratore, del riproduttore musicale, di arrivato a fine cassetta, di ripartire sull'altro lato senza la necessità di alzarsi e girare letteralmente la cassetta, come succedeva nei registratori che questo autoreverse non ce l'avevano. È una cosa che entrò, cominciò ad andare di moda negli anni 80, se non ricordo male, più o meno. Ora, che c'entra col testo di Luciano? L'idea è un po', leggendolo, lui ha letto quella parte in cui vedrete che ci sono molti elementi che danno la possibilità di definirlo bene in questo testo. Però, in sostanza, l'autoreverse, perlomeno l'ho letto così, l'idea che esista un lato 1 e un lato 2 del tempo e dello spazio. Avete notato che nella lettura che ha fatto prima ci sono vari momenti in cui spazio e tempo in qualche modo si sovrappongono. Allora, lo spazio era quello in parte con un campetto di gioco di bambini, un cosiddetto playground con i giochi, con il tubo a serpentina, con gli oblò, non so se ce l'avete presenti, il castelletto col ponte sospeso, eccetera. Poi compare una piazza, ne parlo tra un attimo, poi a un certo punto compare Berlino, Wannsee, compaiono due film di Wenders esplicitamente citati, L'amico americano e Il cielo sopra Berlino, con l'angelo sulla colonna della vittoria. Insomma, e qui siamo, insomma, perlomeno in questo momento, so quello che ricordo io, siamo nell'ambito dello spazio. Poi ci sono dei passaggi temporali continui, per esempio quel pezzo in cui si parla di un ritorno indietro a una piazza e al Palazzo d'Inverno. Ovviamente dire Palazzo d'Inverno evoca immediatamente l'ottobre del 17. Tanto è questo ottobre 17 non è evocato semplicemente, ma addirittura chiamato in causa perché si parla di Reed, e chiaramente John Reed, quello dei 10 giorni che sconvolse il mondo, e a un certo punto compare anche Trotsky. Quindi c'è un, come se tornassimo dietro nel tempo, al momento in cui viene preso d'assalto il Palazzo d'Inverno. Poi c'è anche un occhio che guarda, che sembrerebbe un regista o qualche cosa del genere, che ricostruisce quella scena, e allora mi verrebbe in mente che abbiamo tirato in campo anche Eisenstein, però non voglio mettere troppa carne al fuoco io. No, la cosa da cui partirei, insomma, c'è una confusione di piani spazio-temporali continua, e questa lui ha detto inizialmente potrei cominciare dalla fine, no? Appunto, proprio perché il testo si può percorrere avanti e indietro come il tempo. Tornerei un attimo indietro, però dicevo la piazza. A un certo punto, qui non era citata esplicitamente, si parla di orologio universale. Il libro prevede proprio all'inizio una sorta di dedica collocazione temporale che a me ha molto colpito, perché ad Alexanderplatz, cioè come se fosse sia una dedica al luogo, a quella piazza di Berlino dove c'è questo famoso orologio universale installato lì ai tempi della Repubblica Democratica Tedesca, sia sembra appunto una collocazione, cioè come se tutto cominciasse lì, cioè questa forte presenza, come dire, di cultura tedesca, di Berlino, tanto è che la colonna della vittoria è citata in tedesco, eccetera. Mi aveva colpito, più avanti compare a un certo punto un filosofo franco-cortese, non è esplicitamente nominato, sarà Adorno immagino, eccetera. Insomma, ti chiederei di partire da qua, insomma, dal perché questa sorta di dedica collocazione, no? Che non si capisce bene, ambigua, ad Alexanderplatz. Insomma, allora, quindi dovrei dire un po' come è stato costruito questo sì, libro. Fondamentalmente non sì. È semplicissimo. Ma sono partito fondamentalmente selezionando dei materiali, delle proposizioni, delle frasi rispetto a un'idea che avevo, e ho iniziato, selezionate chiaramente rispetto a un evento storico, a, diciamo, una realtà quotidiana e a un sogno. Sono questi tre testi che nella prima sezione, diciamo, si, come dire, entrano uno dentro l'altro, fino poi alla fine, vabbè, non voglio dirlo perché magari poi li leggo. E quindi semplicemente ho lavorato molto selezionando, come dire, da un'idea di, come dire, cercare di unire i punti di piani temporali e spaziali diversi. E la scommessa è stata selezionando delle frasi da libri appunto selezionati per la ricerca di queste proposizioni, e ho iniziato un po' a combinarle in diverse modalità. Allora, non vorrei dire in una sorta di cut-up, però insomma comunque quell'aspetto sicuramente ha giocato. E ho visto che effettivamente questi piani iniziavano a giocare l'uno dentro l'altro. E quindi l'idea era proprio questa di toccare dei punti e vedere se il linguaggio riusciva, come dire, in qualche modo a raggiungere questi punti, insomma. E infatti c'è anche molto l'idea di limite e l'idea appunto di, come dire, di andare un po' al di là di queste. E ne è venuto fuori appunto Autoreverse. Perché intanto è un testo che è nato abbastanza velocemente, almeno nella prima stesura. La seconda parte in effetti era più narrativa, era un po' più narrativa, perché evidentemente quel gioco di lavorare su queste proposizioni in maniera anaforica, in maniera anche un po', come dire, ossessivamente ripetitiva, e non ero riuscito all'inizio, nella prima stesura, a tenerlo per tutto il libro. Poi parlando anche con Michele Zaffarano, insomma, ci siamo confrontati su questo e devo dire mi ha dato delle indicazioni, per cui poi il libro è continuato in quel modo, però le dimensioni spostandole non più una dentro l'altra. Infatti Landslides è un'idea di Michele, perché mi diceva qua mi sembra che ci siano proprio dei piani che si sovrappongono l'uno dentro l'altro. Invece ho lavorato, come dire, cercando di far scorrere queste due dimensioni, come appunto il lato 1 e il lato 2 di un testo. E quindi, insomma, la scommessa è stata, lavorando in questo modo, ricercando nuove possibilità, che evidentemente. Sì, io notavo per esempio la presenza del termine ripresa che leggevo nel doppio significato di ripetizione, hai appena detto tu, no? C'è un elemento di ritorno ossessivo quasi di alcune immagini, di alcune parole, eccetera, come se andassero quasi in loop Sì, alcuni punti, e ripresa invece nel senso filmico, cinematografico, eccetera, perché no, poi c'è un immaginario visivo, poi magari parliamo magari un po' meglio alcune dopo. citazioni, alcuni prelievi, poi in certi momenti in cui rileggevo il testo, chiaramente, cioè, vedevo che mancava qualcosa, allora ogni tanto prendevo qua e là e inserivo all'interno in modo tale da far funzionare un po' la cosa. Quindi la scommessa era proprio quella, costruire un testo così può essere possibile? Penso di sì, penso di sì. Anche se chiaramente ho notato che poi lo spazio e il tempo in realtà si dilatano in un modo, come dire, che non mi aspettavo. E quindi sì, ho continuato per tutto il libro. Infatti poi questi elementi poi ritornano anche nelle altre sezioni che poi hanno delle situazioni poi anche diverse, diciamo. Hanno delle situazioni diverse, però l'eco, diciamo, di queste sovrapposizioni ritornano e creano quasi un effetto di spiazzamento, insomma, creano degli effetti, insomma, su quale, come dire, insomma, è stato bello lavorare in quel modo. Ok, passiamo a Sì, lui, poi direi di sì, torniamo, perché sì, così alterniamo. alterniamo un po'. Allora, il libro di Fabio Labiano si intitola Cose e altre cose. Allora, io scherzando fuori gli ho detto, operazione più perversa, era difficile farla, perché in realtà è un libro cose, contiene tutto e niente, fondamentalmente, un libro con un titolo del genere. Però partirei prima ancora dal titolo, in realtà. Con i testi che ha letto lui prima un po' mi ha spiazzato perché le cose le ha nominate poco, in qualche modo. Voi vedrete che gli altri testi, i primi che compongono il libro, sono tutti dedicati proprio alle cose. Queste forse facciano parte delle altre cose, non delle cose. E, no, qui invece mi sembra, perché lui dice che è un testo che si è scritto a strati però velocemente, no? Qui invece mi sembra il contrario, cioè, perlomeno da alcune allusioni interne. Sulle note esecutive che ci sono all'inizio di alcuni due testi, un paio di testi, se non ricordo male, sembrano testi che hanno una storia un po' più lunga, insomma, rispetto Non al. proprio, No, no, nel no. senso. Sembra. No, in realtà rispetto a come scrivo io, ho scritto abbastanza velocemente, o perlomeno l'ho rivisti di meno. senso che per certi... mi sono trattenuto forse su nel rivederli. Non è stato, diciamo che tutto comincia qui, in verità, allo studio Campo Boario, perché il primo testo Cose di casa l'ho scritto per un'occasione che mi ha offerto Alberto, cioè mi ha invitato a leggere un testo, fare qualche cosa, insomma, in occasione di una casa che si era liberata qui nel palazzo. E quindi la cosa doveva avere a che fare con la casa. Ora io in generale, a parte, sono contrario alle poesie d'occasione, insomma, non è proprio una cosa che... Però, vabbè, ho accettato la sfida e quindi ho scritto questo testo, che nella mia idea era una performance, nel senso che era un testo in cui non mi immaginavo assolutamente quale poteva essere la reazione del pubblico, nel senso, da una parte volevo sfiancare un po' il pubblico e allo stesso tempo... Di tutto e di niente, perché poi era questo tutto e niente un po' il centro del, secondo me, del libro. E quindi volevo un testo che fosse da una parte facile, dall'altra però logorante. Sì, dovessi trovare per esempio un elemento di analogia tra i due testi, cioè questo elemento della ripetizione che ritorna in una spesa, cioè interi blocchi di frase che vengono ripetuti, la casa di Mario, la casa di quella, cioè questo Mario che torna spessissimo, di Franco in quel caso. Quello di cui si parla di più è la casa di Franco in confronto alla casa di Michele, la casa di Rita, esatto. Cioè c'è un continuo. Sì. Tant'è che ci sono proprio le indicazioni di esecuzione alla fine, è da lì che nasceva infatti la mia domanda. Sì, perché infatti appunto quel testo è stato diciamo una performance, poi diciamo che mi sono reso conto che in realtà è piaciuto molto, quindi sono rimasto pure un attimo spiazzato io stesso, cioè sono stato contento ovviamente, però quando faccio le cose dico, mi sento sempre un po', io mi definisco un borderline della figura di merda. Che faccio una cosa e non so mai come andrà, quando faccio le performance con Laura, delle volte improvvisiamo delle cose e dici, come andrà, boh. E quindi pure lì ero tutto preoccupato. Però invece... parlavo di case e... In realtà non parlavo di niente, la mia logica era un po' questa, però mi sono reso conto che comunque che ognuno si riflette un po' in questo niente in cui c'è un po' tutto, cioè nel senso che è un modo di costruire uno specchio vuoto, riflettente, in cui ognuno poi alla fine mette, questa è una riflessione un po' a posteriori, nel senso che ho maturato pure questi giorni, magari riflettendo prima della presentazione. Che mi è successo anche di vedere anche quando delle volte che nelle mie lavori visivi, delle volte c'erano delle scritture appunto lasemiche, incomprensibili, e quello che fa normalmente il lettore, lo spettatore, è quello di cercare di costruire un senso. E io in realtà ho fatto un'operazione di svuotamento di senso, che però ho visto che poi chi ascolta riempie di senso. Ed è stato molto interessante questo accorgersi che appunto costruire un vuoto in realtà è dare un potenziale spazio pieno al lettore, al pubblico, allo spettatore. Sì. No, diceva Edoardo Sanguinetti che ogni testo è un testo per il lettore fondamentalmente, e qui è abbastanza evidente. Perché dicevo prima operazione perversa? Perché intitolare un libro in cui due volte ritorna nello spazio del titolo la parola cosa, che è in assoluto in italiano il termine più onnicomprensivo e più indeterminato che esista, non esiste un termine più indeterminato di cosa in italiano, che è contemporaneamente utilizzabile per elementi astratti che per elementi concreti. A un certo punto ci sono dei personaggi, perlomeno che sembrano tali, che dicono no, non ci diciamo le cose, per esempio, in altri casi si parla di mettere cose dentro delle scatole, quindi da una parte sono, diciamo, idee, concetti, eccetera, dall'altra sono oggetti materiali, però in realtà queste cose non vengono mai nominate. Allora perché dicevo perversa? Perché appunto di fatto mette in campo, con questo gioco di abbassamento di livello, in realtà gioca una partita molto elevata, diciamo una posta molto elevata, nel senso che c'è quasi una vocazione classificatoria, poi in altri testi è molto più evidente, no? Cioè quasi l'elenco delle cose, appunto, del mondo. Ora noi siamo abituati all'idea che distinguiamo tra parole e cose. Qui c'è questa operazione perversa del sovrapporle, cioè di fatto queste cose di cui spesso si parla all'interno del testo sono le parole stesse, cioè ci diciamo, eccetera, eccetera. E questa cosa l'hai detta, questa cosa non l'hai detta. È un elemento su cui si gira continuamente intorno, da una parte allo svuotamento appunto del testo e del significato proprio della parola cosa, perché da lì ognuno ci può mettere come vuole davvero, e dall'altro invece il potenziamento in questo senso, cioè alla fine posso parlare del mondo senza nominarlo, quasi da un po' questa la sensazione. Sì, no, sono... di qualcosa di più di sì, magari. No, sono... l'idea era questa, era questa di svuotare sostanzialmente e allo stesso tempo di riempire, cioè nel senso era comunque quando tu hai detto appunto è tutto e niente, è proprio il discorso di giocare sul tutto e sul niente, sull'equivalenza di queste due parole, e come anche secondo me specchio della realtà in cui stiamo, che è una realtà fatta di milioni di cose in cui abbiamo il tutto, però questo tutto poi andando ad afferrare si riduce a niente. E comunque sono come una parcellizzazione di un tutto che è un parcellizzare invece che un unire, che ne so. Sì. E quindi in realtà proprio questo obiettivo di dire e di svuotare, quindi di nominare queste cose, ma appunto senza mai dirle, senza facendo in modo tale che però appunto costruendo uno spazio di rappresentazione, di fatto, di rappresentazione per il lettore e per il mondo. Comunque l'idea quella della classificazione dell'elenco, a parte che mi ha sempre affascinato, è sempre stato un po' l'obiettivo, e questo in questo libro ho cercato di farlo in maniera appunto al contrario, nel senso invece di nominare tutte le cose farle essere senza dirle in qualche modo, quindi fare, sì, c'è una specie tutto... di critica dell'elenco in qualche modo, non so, di negazione dell'elenco, sì, mentre però faccio l'elenco lo sto in realtà amando l'elenco, esatto, diciamo, esatto, così, sì, si intuisce, senso... infatti, sì. Non so se ho aggiunto qualche cosa rispetto, sì sì, assolutamente ridonno sì. A Luciano, dicevo prima c'è parlavo della prova ripresa, no? E c'è citato un cinema, eccetera. Allora, mi sembra che ci sia un elemento speculativo abbastanza forte nel testo, no? Cioè già l'idea di parlare di spazio e tempo mette in campo una cosa a parte Mari Polsi. E mi interessava il fatto, speculativo lo intendo sia nel senso filosofico, diciamo, perché mi sembra che ci sia dietro delle letture della fisica contemporanea o qualche cosa del genere, e soprattutto sul tempo in particolare. Dall'altra forse questo termine speculativo è inteso nel senso puramente visivo. Ci sono due elementi che tornano, che sono da una parte il telescopio e dall'altro l'occhio messo a nudo, tra l'altro con paracitazione baudelariana, cioè non è l'occhio nudo ma l'occhio messo a nudo, che è una cosa abbastanza interessante, cioè tolto, svuotato di qualche cosa, la lente o di quello che sia. Ora, che non c'è niente di più antitetico tra la parte appunto l'occhio nudo e il telescopio, cioè quello che permette di vedere la visione normale e quello che permette invece la visione a estrema distanza, sì, mancherebbe il microscopio, ma insomma non è significativo, però c'è questo elemento di appunto di guardare, io ci ho visto quasi una sorta di pensiero visivo o di sguardo pensante, tra l'altro la parola pensante torna moltissimo, cioè come se qualcuno che muovendosi osserva e pensa al mondo. Sì. Sì, diciamo che tutte le sezioni, le cinque sezioni di questo libro, sono state costruite tenendo conto comunque di una sorta di dicotomia. Quindi lì sono degli eventi che si sovrappongono, e negli altri diciamo, capitoletti sono, ad esempio, c'è tutto un corpo a corpo tra il pensante e il non pensante, c'è tutto un momento in cui sono delle situazioni quotidiane in cui dei personaggi scendono le scale e poi quasi contemporaneamente le risalgono Sì. poi, insomma, sì, sono tutte situazioni, infatti i testi sono duplici, che chiaramente si sovrappongono poi a tutto il resto, insomma, tutto il resto che... Ma questo è stato un po' un modo per mettere insieme, beh, un linguaggio finzionale e un linguaggio proprio dei fatti, di alcuni fatti anche storici, diciamo. Sì, perché il Palazzo d'Inverno torna con... Il Palazzo d'Inverno torna. Non voglio dire troppo su questo, No, sai ok. No, perché? perché tu hai detto fatti storici, va bene. Sì, perché poi in realtà questo è un testo, mi sono accorto che in realtà il vero testo non è in superficie, cioè è un testo che si risolve altrove, si risolve altrove. Non c'è una speculazione filosofica, però c'è, come dire, sicuramente una parte di tutto ciò che riguarda il pensiero negativo, però negativamente. E beh, chiaramente il Palazzo d'Inverno rimanda, sì, alla rivoluzione per eccellenza, diciamo, in qualche modo. Quindi le altre parti in realtà sono ciò che rimane di tutto questo, insomma, di tutto questo attraversamento. C'è sempre il movimento ad esempio di una passeggiata, salire, scendere le scale, e forse il testo che riassume tutto è proprio l'ultimo, dove c'è proprio, è stato costruito col movimento dell'andare avanti e Ah, indietro, sì. del fermarsi e del così casualmente riprendere, insomma, Sì, tutte tra queste l'altro l'ultima proposizioni. sezione lo dico, si intitola Rewind, Flash Forward, per cui appunto no, quello che fai con il registratore, mandi indietro e mandi avanti. Quindi sì, non c'è stato, diciamo, un pensiero filosofico che mi ha, come dire, in qualche modo indirizzato, ma c'è stato proprio, come dire, mettere... No, mi interessa, dato, tu l'hai detto tu, cioè lui ha soltanto la rappresentazione, vedi come vengono fuori le analogie quasi per caso. Tu hai parlato invece di, hai detto, adesso il termine finzionale, mi interessava qual era il rapporto appunto con la rappresentazione, con la finzione, perché hai detto che c'erano degli spunti narrativi Beh, inizialmente sì. inizialmente, no? Beh, il fatto anche di mettere insieme dei personaggi che in qualche modo sono reali con personaggi invece della finzione che si sovrappongono uno dentro l'altro. A un certo punto c'è l'uomo circospetto, l'ombra dell'uomo Ah sì, che c'è cioè, che scende. ritorna, sì, che sembra tratta da un film in realtà, Eh quella una sì, cosa del quello è proprio un genere. fotogramma, sai qual No, quello non sono riuscito a è identificarlo. Nosferatu, no? Quando Ah, no, ci scende. avevo pensato, ma poi no, non sarà, non so perché, però, quindi torna alla cultura tedesca. Perché la cultura Sì. tedesca allora? Allora adesso torniamo ad Alexanderplatz. Beh, non so, dal punto di vista biograficamente Berlino è sempre una città che ho frequentato in Ah. passato e sicuramente è rimasto un po'. Un po'. E poi mi interessava chiaramente Berlino per il fatto Per che comunque è stata una città divisa un lato B in qualche modo, sì. e quindi mettere insieme tutti questi spazi, questa planimetria molto è stato un po' il vero, come dire, la vera scommessa. E tant'è vero che poi il libro è fondamentalmente proprio contornato di oggetti anche molto lontano tra di loro. Chiaramente c'è anche un discorso, essendo, lo devo dire, essendo il mio esordio, fondamentalmente questo. Beh, prima io scrivevo poesie, Sì, quello diciamo. ci voleva arrivare dopo. Ah, dopo. No, no, però, ecco, No, dai. beh, chiaramente questo è anche un libro sulla metafora. È un Sì, libro anche ah, sulla ecco, metafora. molto spesso compare nel testo la parola metafora tra parentesi, cioè come se improvvisamente fossero, cioè c'è un'immagine, poi c'è una, come se fosse una spiegazione in qualche modo, Sì. e tra parentesi ho scritto metafora. Attenzione, no, Sì. spiegalo perché è molto interessante quella cosa. Sì, questo è infatti un po' come dire così, aggirarmi, ci sono anche altri elementi che comunque appartengono a una certa, alla lirica anche tradizionale, Sì. e beh, salire e scendere le Eh beh, scale sì, vabbè, abbastanza la lirico. criptocitazione montaniana è Esatto. idrolante. Beh, sì, è un po' anche il discorso che facevi con Fabio, insomma, è come dire, così, anche stuzzicare un po' nei dintorni, nei contorni del testo lirico il lettore dicendo, beh, adesso qui la metafora, vediamo se riesci a metterla tu, non so come dire. È un po' provocatoria, insomma, perché a volte nel testo è stata studiata questa parola messa tra parentesi, altre volte invece l'ho messa un po' a caso, come veniva. E c'è anche un altro termine importante, tra parentesi, che è persona, Persone dove, o in persona, o in sempre, persona, che sì. fa, come dire, in qualche modo, che rimette sullo stesso piano sia le figure finzionali, sia le figure, diciamo, reali che sono presenti in questo libro. Sì, c'è una cosa che accomuna i testi, questi testi a molti altri testi, insomma, che poi si vanno pubblicando nei chapbook, è questo elemento di chiamata in causa continua del lettore, no? Allora, è come se entrambi, lui diceva adesso con la metafora, adesso mettici tu, caro lettore, quello che ritieni utile metterci, o nel suo caso, come se ti dessi un foglio in cui sono le parti bianche da colorare, insomma, da andare, non so, per questo, ma in alcuni punti mi ha fatto un po' questa impressione, no? Cioè, se non, cioè, il testo non predefinisce tutto quello che, tutta la sua fruizione, no? Ne lascia una parte, molto, molto importante al lettore stesso, non c'è, non ti do tutto, appunto. È proprio chiamato in causa di continuo il lettore. Tornando a Fabio, mi chiedevo, c'erano alcune figure retoriche che mi tornavano spesso, per esempio la tautologia, volevo dire più o meno questo uguale a questo, cioè le cose come le cose, c'è cioè una frase del genere, a un certo punto così, delle finte similitudini, adesso non ricordo esattamente, e spesso la preterizione, quella che hai fatto prima, no, cioè io non ti dico niente, o meglio, non ti... Cioè, volevo scrivere una poesia, però, cioè, quella non l'hai Sì, letta, volevo scrivere una poesia, però poi non la scrivo, volevo dire una cosa, scusa, volevo dire una cosa, però non la dico, nel frattempo la sta dicendo. La prima che ha fatto, quella del silenzio, no? Cioè, bisogna stare zitti, tutto questo facendolo come? Parlando. Cioè, questo gioco continuo di rovesciamento continuo dell'enunciazione, sostanzialmente. Dico una cosa, contemporaneamente dico anche il contrario. Mi interessava perché questi sono meccanismi abbastanza tipici della scrittura comica. Cioè, qual è il rapporto del comico? Perché insomma, parlando con, chiamiamolo in causa se non c'è, Gianluca Picconi, cioè lui legge questa poesia in chiave comica, proprio apertamente comica. Non ti sto chiedendo cosa pensi di cosa No, pensa, no. di cosa dice Gianluca Picconi, però qual è il rapporto di questa scrittura secondo te con il comico? Diciamo che sono d'accordo nel senso che c'è questa componente comica, però, come dire, non nasce, come dire, viene facendo, non c'è un punto di riferimento comico, però è quella comicità, nel senso che anche Beckett è comico Sì. in certi punti. Anche se però è anche tutto il contrario, quindi è un po' una comicità dell'esasperazione, una comicità nel senso che poi che mi, sì, che, come dire, che mi viene scrivendo, quindi mi rendo conto che mi appartiene, però ecco, non ho dei punti di riferimento rispetto a questa alla comicità, non è neanche come dire, un punto di partenza, non voglio essere comico in partenza, forse lo sono drammaticamente, inevitabilmente, Per senza dire, le saperlo, cose insomma, sì. belle, che è il testo, che dicevo prima, l'elenco, no? Proprio la critica dell'elenco, cioè mentre faccio l'elenco rovescio l'elenco, cioè prendo in giro l'elenco, e dice proprio l'autologia, dicevo, delle cose delle cose come le cose vere, delle cose come queste cose, delle cose come quelle cose. Cioè praticamente niente, no? Mi è venuto in mente anni fa un mio alunno che mi diceva, ho visto un film di che parlava di uno e una. Sì, infatti sarebbe una Meraviglioso, poesia possibile questa. fantastico, meraviglioso. Cioè, poi nel senso, ci Fantastico. potevo mettere dentro qualsiasi cosa, qualsiasi film forse parla di uno e una. L'ho trovato meraviglioso, in effetti. Quindi questo è un meccanismo del comico, Sì, sì, appunto. sì, sì. Però ecco, non Questo. ho studiato il comico, i No, cioè, meccanismi del non è. comico, mi ci trovo dentro forse un po' naturalmente. Poi rileggendomi, delle volte mi metto a ridere, insomma, ovviamente. L'altro giorno che c'era mia moglie e mia figlia lo leggevano, ridevano. E fa piacere, ovviamente, che ridano. Perché pure le volte, fino a che punto ti sei spinto con Sì. questa stronzata, diciamo, queste idiozie. Perché poi forse è questo, ecco, il comico è nel gioco dell'idiota, forse. Nel senso che c'è sempre, come prima diceva la Bordellana, la figura di merda, però è sempre questo esporsi sul crinale dell'idiozia, non stai lì che dici quanto la gente capirà che non sono idiota davvero, o ci faccio o ci so, cioè nel senso non sai mai, no? Come sarà interpretato. E quindi lì c'è quell'ironia che è un po' che mi fa ridere anche a me delle volte quando supero quella piccola soglia del. Però magari rido dopo, ecco, non nel momento del. Non Sì, è spesso l'intenzione, è diciamo un comico così. d'accumulazione, no? Sì, Cioè, nel senso che disesperazione quasi. esasperazione, cioè ingigantisco talmente tanto la situazione per cui a un certo punto ovviamente esplode Sì. e esplode nella risata. Appunto, il caso, quello che dicevi prima delle cose di casa, che è il primo dei testi, Sì. per esempio, che è più lungo, se non ricordo I primi male. due sì, sono i più Sì, lunghi. più lunghi, eccetera. Qui c'è scritto che è il tuo primo libro. Sì. Nel senso che ho scritto un altro libro, però me lo sono stampato da solo, insomma, qualche copietta così in giro, No, insomma. però siccome c'è un percorso lungo, in realtà, non è che ho cominciato ieri mattina a No, scrivere, però racconta. sono stato sempre, come dire, per anni ho abbandonato la scrittura poetica, perché ero coinvolto nella politica controculturale underground, insomma, vogliamo chiamarla così. Insomma, c'era un atteggiamento seguivo dei filoni più antiintellettuali, più di. E poi sono stato preso molto dall'arte visiva. Però negli ultimi anni invece ho avuto voglia di mettermi a scrivere, di recuperare pure un po' il tempo perso, che non era tempo perso, ovviamente, perché ho fatto altre cose che mi hanno nutrito. Però diciamo, la poesia e la scrittura, diciamo, è il primo amore. Nel senso, tutto nasce da. Anche il mio approdo all'arte visiva è sempre passando dalla poesia. È uno sconfinamento del poetico comunque, o dell'antipoetico, cioè la scoperta. Sì, nel senso è un percorso lungo, appunto, come dire, con delle immersioni, delle immersioni, che adesso sì, è uscito questo, adesso ho 51 anni, è uscito questo primo libro. Però sì, ho sempre lavorato un po', però ecco, in dei momenti ho proprio abbandonato, in certi momenti proprio la poesia non mi interessava più. Non sentivo intorno delle cose che mi coinvolgessero. Poi il fatto di aver scoperto Gam, Marco Giovenale, Zaffarano, tutte queste scritture mi hanno un po' respinto a credere nella forza della scrittura, che avevo un po' perso. Però ho sempre praticato invece nella dimensione della performance insieme a Laura, perché quindi era una dimensione più direttamente, dalla parte più istintiva, dall'altra, comunque una dimensione antipoetica in ogni caso, era il rifiuto della dimensione della postura classica della poesia italiana, diciamo così, della sua ermetica incomprensibilità, diciamo, non so se. E quindi per anni ho praticato, diciamo, non scrivevo testi, però praticavo la poesia, perché comunque c'è sempre stata questa idea dentro di me che forse L'unica vera idea romantica che ho ancora dentro, che mi porta avanti, è quella che la poesia è altrove, cioè nel senso che non è. Da una parte il testo è un puro accadimento linguistico, dall'altra la poesia è la ricerca di qualche cosa fuori dal testo. Però ecco, tutto ciò senza voler essere un discorso antimitico, ovviamente. Insomma, ecco. E, o semmai moderno, nel senso delle avanguardie storiche, passato anche questo come discorso, insomma il mio aspetto forse passatista, però... Sì, che fa un po' il paio con quello che stai dicendo tu, no? Anche tu hai fatto la parola altrove un attimo fa, però visto che stiamo parlando di percorsi, ritorniamo a quello che stavi per dire prima, perché io ti ho bloccato, perché una domanda che ti volevo fare è perché sempre nel libro, nella terza di copertina, c'è scritto che la tua scrittura è in corso di pensamento. E già, questo ripensamento mi ha fatto scattare la curiosità. Tu stavi dicendo, prima scrivi in versi, sì. Sì, beh, per tanti anni ho provato a scrivere poesie, diciamo, poesie, non so. E, beh, non abbiamo un percorso tanto dissimile. Però chiaramente ho capito, credo, che quella modalità, anche storicamente, secondo me ormai ha perso ogni valenza, anche se continua, come dire, ad essere dominante, diciamo. E quindi è un po' come l'esaurimento di Sanguinetti, non so come dire, sì, no? A un certo punto, già 2-3 anni fa, insomma, ho iniziato a guardare la scrittura in maniera diversa, e il fatto di conoscere anche autori come Marco, insomma, come Zaffarano, sicuramente mi ha dato una spinta importante. E poi sono tornato anche un po' ai miei primi amori, perché quando studiavo all'università io leggevo Spatola, Corrado Costa, e insomma tanti autori anche di Sanguinetti, insomma dell'area comunque del gruppo del 90, del gruppo del 63. E, però è come se avessi vissuto una sorta di rimozione. Ho iniziato a scrivere poesie brutte, fondamentalmente delle brutte poesie, dei brutti libri. A un certo punto ho deciso di dire non mi ci sentivo più dentro. E l'approdo alla prosa come arriva? Sì, iniziando a capire che ci sono altre modalità, altre strategie di scrittura per cambiare proprio la funzione anche la scrittura stessa, insomma. E quindi, insomma, cose di cui si parla anche, quindi prendere le distanze da una certa estetica dominante, per anni ho ricercato uno stile poetico e, insomma, e quindi anche quello mi sa che è un po' accantonato. Beh, chiaramente poi c'è tutto il discorso intorno al lirico e quindi la presa di distanza rispetto a un certo tipo di autore, che quindi è diventato un lavoro più divertente e più interessante. Ci si libera della lirica, ci si diverte. No, guardo Marco. No, più interessante, perché poi il territorio della prosa è un territorio effettivamente sconfinato, quindi ci sono tantissime idee che possono diventare dei libri di questo tipo, forse qualcosa di diverso, insomma. E da lì, insomma, sto continuando a scrivere, a cercare cose, vediamo cosa ne uscirà fuori, insomma. No, perché giustamente dici il territorio della prosa è sconfinato, perché se uno non identifica la prosa con romanzo, veramente gli si aprono scenari incredibili e ancora effettivamente poco praticati, o quantomeno poco praticati dalla editoria. Sterminato, nel senso che comunque c'è tutto un discorso chiaramente sulla testualità, su poi anche l'enunciazione, ma anche tutto il discorso della pragmatica, insomma. sono quei, secondo sì, me sono quei sì. territori che vale la pena esplorare, insomma. Sì. E poi mi sembra di scrivere, insomma. Mi sembra di scrivere, prima invece no, non avevo mai questa idea. Sembrava di non approdare a nulla, insomma. È certo. Una cosa interessante, peraltro, questa. Molto. E visto che lui ha fatto dei nomi, adesso, allora, vabbè, prendo in mano un libro del genere, cose, altre cose, penso immediatamente a Perec, elenchi e cose del genere, no? Cioè, le cose del libro, un libro di Perec, anche se è un romanzo. E ci sono autori a cui ho guardato, al di là del punto di contemporaneità, di Gam è un elemento che accomuna, sì, è Gam. Allora, non mi sono posto molto questa questione. Nel senso, prima hai fatto il nome di Beckett. Sì, sì, sicuramente, sì. Nel senso che di Beckett, perché ci stanno delle dimensioni pure di universo chiuso all'interno del libro, no? È quasi che la scrittura non riesce a uscire dalla scrittura, appunto, queste cose, altre cose, un universo chiuso, quindi c'è questa dimensione un po' claustrofobica, se sì. uno lo vuole vedere, sì. nella sua comicità. E per certi versi anche Ionesco, nella misura del soprattutto sul testo cose di casa, perché a parte l'avevo letto da poco la cantatrice Calva, e c'è questa dimensione comunque della scrittura elementare. Lui aveva preso pezzi di un libro d'inglese, una cosa del genere, mi sembra, Ionesco. E c'è questa cosa, poi anche la lettura di Tarkos, che è una cosa recente, comunque sono tutti i soldi, avevo letto, anche se non c'è niente a che fare, però c'è un tono comunque basso della scrittura, una ripetizione, insomma c'è un andamento che mi ha preso molto e che ho trovato molto liberatorio a livello di scrittura. Poi ce l'avevo già certe componenti dentro, di scrittura ripetitiva e semplice, che però nella mia pratica alterno con altre, insomma. E questi giorni poi ho pensato, come altri riferimenti, secondo me c'è l'Otramo delle poesie, però l'ho pensato qualche giorno fa questa cosa, non l'ho pensato prima, nel senso che riflettendo in questa proprio dimensione di paradosso, di inversione, sì, di quello che sta dicendo, non si è bene che se sta dicendo la verità, che sta di in quel momento, come sono uscite fuori queste poesie dopo un libro come I Canti di Maldoror. Sì. E poi penso, se voglio, dico sempre cose che ho pensato in questi giorni, è così, che c'è la componente musicale, che mi è sempre stata importante, non a caso pratico la poesia sonora con Laura, però questa componente musicale si è radicalizzata in questo periodo magari attraverso l'ascolto delle musiche minimaliste, quindi quelle piccole, questi spartiti, queste piccole, come dire, loop che vengono ripetuti e che poi costruiscono una sinfonia. Una sinfonia, sono sinfonie, sì, però, che costruiscono delle, i cluster, no? Che si, sì, ripetono, si assommano, si ammucchiano, sì. A un certo punto lo dicono, le cose si ammucchiano, si moltiplicano, quindi ho pensato che forse questa cosa mi ha influenzato inconsciamente nel liberarmi di certe, in questo testo, diciamo, nell'accedere a un certo tipo di scrittura e di scrittura e di musicalità, però ecco, di base penso che ci sia quella volontà beckettiana forse di fare una tabula rasa, che quella però ce l'ho sempre avuta, ecco, nel senso, sì, ci si pensa subito a Beckett, insomma, leggendolo, sì. A questo punto vi proporrei una seconda lettura, sì, appunto, sì, direi che è il momento, sì, proprio per approfondire ulteriormente il testo, poi magari se qualcuno vuole fare domande. Sì. Sì, sì. Magari salto un po', allora finisco la prima sezione così per, appunto, per capire come va a finire. Qualche sera fa Trotsky in persona, somigliante a una goccia d'acqua in persona, ha sognato Rida allo specchio in persona di quell'uomo in persona somigliante. Rida ha sognato Trotsky alla stessa maniera in persona somigliante. E insieme a presenze non ben inquadrate in persona, non ben identificate in persona, lo scivolo a spirale, il ponte sospeso, l'esplorazione del boschetto soprastante, la serpentina Yoblò, l'erba sintetica del campetto, le linee di gesso come i limiti del campo da intendersi rispetto allo sfondo, con l'aggiunta di fatti di cui la loro presenza in persona non si era accorta a venire durante la giornata al Parco del Castello. Di fronte al palazzo d'inverno un uomo assiste all'assalto in persona imminente e impedisce di intervenire in persona con la macchina da presa a un altro, lo specchio dalla sua goccia d'acqua somigliante in persona dietro a delle sbarre fino ad arretrare al diradarsi della folla, fino alla piazza dell'arretramento che nel frattempo si è svuotata in persona senza poterne ancora stabilire con certezza un ordine successivo e o uno precedente. Insieme a Vanzé in persona il picnic di fronte allo specchio del laghetto dei cigni che starnazzano e sbattono le ali, la fine dell'amico americano insieme in persona dissolvente e refuso con la scena dell'angelo che li osserva in persona alle miserie della Siegessäule in direzione dell'orologio universale, lato West Side Gallery. Qualche giorno dopo siamo ritornati al parco del castello per memorizzare i momenti delle scene del gioco identica al sogno liberamente tratti e i punti sgranati delle immagini hanno invaso ogni loro traccia in persona fino al diradarsi della folla, indietro fino alla piazza che si stava svuotando, né a ripensarci bene né su una piazza che non si sarebbe riconosciuta senza nessuna delle loro presenze in persona mentre i bambini in gruppo, spensierati, continuavano a giocare alla folla a cassare il palazzo d'inverno, all'uomo in ostaggio alla sua ombra in persona che discende circospetto le scale con un pallore espressivo e gli occhi anch'essi sgranati all'angelo insieme ai cigni che starnazzano e sbattono le ali entrando nel laghetto, alle campane a morte del pensiero nella loro stessa presenza incastrati dietro a delle sbarre in persona al movimento in persona di una telecamera che accompagna le sequenze finali appese all'ingranaggio universale dell'orologio e un amico americano che si era perduto nel frattempo in mezzo al parco del castello. La notte dormendo non ho sognato, perché il sogno è rimasto dietro un vetro a guardare interamente, né a ripensarci bene né sotto la traccia alcuna di un foglio ancora bianco, ancora più trasparente. Poi c'è tutto questo nella seconda parte, questo corpo a corpo. Il giorno dopo, con l'idea di una passeggiata, il marciapiede lato mare fino al belvedere, la vista delle immagini fino alla spianata, l'incastro sotto dei vicoli, l'orizzonte panoramico, le nuvole a forme riconoscibili, sotto il fresco dell'ombra l'orologio universale, prima e dopo l'East Side Gallery, presupposti dell'occhio nudo e quelli del telescopio, il fresco sotto l'ombra degli alberi. Il giorno prima e quello dopo, con l'idea di una passeggiata fumando una sigaretta al tratto da casa fino alla spianata, le immagini che si erano intraviste da qualche settimana fino al belvedere a mescolarsi con l'incastro sotto dei vicoli, con l'orizzonte a far da cornice, a grand'angolo, con le nuvole dalla forma riconoscibile, con i presupposti del telescopio e dell'occhio messo a nudo sotto i fusi dell'orologio universale, sotto il fresco dell'ombra degli alberi con i presupposti per una migliore osservazione. Arrivati al parco del castello, la ripresa dell'azione dell'evento, all'altro non pensante il dialogo a lui simile, metafora, il disegno dal bianco al trasparente per il momento atteso e idilliaco della cornice, a sorveglianza del rumore alla libertà di alcuni attimi al posto del pensiero, al posto di se stesso si è messo da parte, metafora, la ringhiera ha indicato per godere del panorama di uno spazio aperto che dal parco del castello è un punto di vista insolito per una volta, per l'esattezza non comune, metafora, l'attenzione a un punto del mare più blu in direzione dell'orizzonte, mentre il non pensante a quel pensiero che lo tracciava si era distratto appena su un punto imprecisato del disegno di una nuvola che non pensava potesse assumere una forma così precisa, quel tratto da considerarlo irreale, metafora. Davanti alle immagini rimostranti del telegiornale, metafora, la ripresa dell'evento fino alle spinte al diradarsi di una folla, in ogni punto sgranata la lettura di qualche saggio sul pensiero di qualche pensatore francofortese sul meno, metafora, insieme a presenze non ben inquadrate, a qualche verso dell'attuale trend poetico giusto dopo per riposare la mente, metafora dopo del passaggio di prima, alle sue letture preferite per svuotarla, metafora, indietro senza un precedente successivo alla loro portata per riprendersi le immagini asincrone e fin quasi sfasata a partire soprattutto dal pomeriggio al Parco del Castello, sorpresi insieme a presenze non ben identificate di quelle strane incomprensioni, straniamento quasi per la nuvola, prima reale e dopo irreale, di quei momenti asincroni e fin quasi sfocati adesso nel pensiero con il rumore del dialogo andato a corto di giri e o in affanno, pur con qualche variante a tenere la luce accesa della lampada o a isolarsi con l'ascolto di qualche vinile acquistato di recente, metafora, circa la vicendevolezza e i lirici nostrani che potessero almeno rasserenare con le loro voglie, senza i rumori in dialogo con la natura e i ronzii dispersi in oggetto alla loro instancabile ricerca monocroma, metafora, in quel momento nemmeno a provocarne una qualche reazione scontrosa di pensiero senza ancora la certezza di poterne stabilire un ordine entro le linee bianche di gesso, a bussare più volte per diletta alla sua porta e o per prendersi in un gioco, metafora, fino alla piazza da arretrare, già pronta alla fissazione distesa del pensiero libero e alla fissità della luce della lampada, metafora, a chiudere gli occhi per l'oscurità della camera e le immagini a liberare il pensiero che aveva avuto a lungo un dialogo più simile a un rumore per un'intera giornata fino a una piazza che nel frattempo si era svuotata. Allora, poi rileggo la prima, visto che l'abbiamo parlato. L'abbiamo recitata più volte. Più volte, non la leggo tutta perché appunto dovrebbe, che non si può. No, non c'è ancora. Non si può, nel senso che prende, dura 10 minuti. E l'altra volta quando l'avevo letta, appunto, l'obiettivo era quello di sfinire, vedere un po' che succedeva dopo 10 minuti di lettura su questo soggetto, però appunto invece forse sarebbe potuto andare, poi per come era concepita poteva andare avanti anche mezz'ora, a un certo punto pensavo che poteva ricominciare addirittura, però vabbè. Cose di casa. Franco ha una casa piena di cose. Anche la casa di Michele è piena di cose. Ci sono cose che stanno nella casa di Michele che stanno anche nella casa di Franco. Molte cose che trovi nella casa di Franco sono molto interessanti. Anche nella casa di Michele ci sono cose interessanti, ma non interessanti come quelle nella casa di Franco. Michele, forse, ha più cose in casa di quante ne abbia Franco, ma le cose che Franco ha in casa sono più interessanti di quelle che ha in casa Michele. Nella casa di Michele ci sono tante cose. La casa di Michele non è la somma delle sue cose. La casa di Michele è anche tante altre cose. La mia casa è bella, la mia casa è brutta, la mia casa è così così, c'è molto disordine in casa, porto il cane fuori casa, torneremo a casa presto, ci aspettano a casa, una casa è una casa, casa è quella che chiami casa. La casa di Franco ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Anche la casa di Michele ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, come la casa di Rita, di Marco e di Chiara. La casa di Michele è più buia della casa di Rita e di Chiara. La casa di Chiara è più piccola di quella di Marco, di Franco e di Rita. La casa di Rita è più rumorosa di quella di Franco e Michele. La casa di Franco ha più problemi idraulici di quella di... Nella casa di Rita c'è molto disordine. La casa di Rita è soffocante. Nella casa di Rita ci sono troppe cose. Nella casa di Rita c'è poco spazio. Per molte cose la casa di Rita e quella di Michele si assomigliano. Nessuna casa è perfetta. Non esiste una casa perfetta, ma la casa di Franco è quasi perfetta. Hai mai visto la casa di Franco? Devi vedere la casa di Franco. La casa di Franco è quasi perfetta. Non a tutti piacciono quel tipo di case. L'arredamento della sua casa, Franco l'ha scelto da solo. È la sua casa. La casa di Franco è come Franco. Franco assomiglia alla sua casa. Franco è una bella persona. Quasi perfetta. A Michele non piace la casa di Franco. Dice che la casa di Gianni è più bella, ma Michele è più brutto di Franco e la sua casa è più brutta di quella di Franco e anche della casa di Chiara, che è una bella persona, anche se non ha una bella casa. Però la casa di Michele ha una bella posizione. La posizione di una casa è importante. Franco ha una bella casa e una bella posizione. La casa di Michele ha solo una bella posizione. Nonostante la posizione, la moglie di Michele vorrebbe cambiare casa. La moglie di Michele dice che le mattonelle della sua casa non sono belle. La moglie di Michele non sopporta più le mattonelle del pavimento della sua casa. La moglie di Michele vorrebbe cambiare le mattonelle o la casa. Le mattonelle della casa di Michele sono mattonelle senza anima. La casa di Michele è una casa moderna senza anima come le sue mattonelle. Tutte le mattonelle senza anima sono mattonelle di una casa moderna. Michele ha scelto da solo le mattonelle della sua casa. Michele è un uomo moderno con una casa moderna. A Michele piace la sua casa. A Michele piacciono le mattonelle della sua casa. Michele è affezionato alla sua casa. Michele si sente a casa nella sua casa. La casa di Michele ha una bella posizione. Non è facile trovare case con una posizione così bella. Michele e sua moglie litigano per la casa. La moglie di Michele vuole cambiare casa o cambiare le mattonelle. È più facile cambiare le mattonelle che cambiare casa. Michele non vuole cambiare casa. Michele e sua moglie litigano per la casa. Anche Franco e sua moglie litigano, ma non per la casa. La casa di Franco è quasi perfetta. Michele dice che Gianni è più bravo di Franco in fatto di case ed è anche più bravo di Michele, di Chiara, di Rita e di Rita in fatto di case. In fatto di case e di cose di casa, Gianni non lo batte nessuno. Se hai un problema a casa, chiama Gianni. Se hai bisogno di un consiglio sulla casa, chiama Gianni, che Gianni in fatto di case e di cose di casa non lo batte nessuno. Anche se la casa di Franco resta la più bella. Franco invita spesso Gianni nella sua casa. Ogni tanto Gianni aggiusta qualche cosa a casa di Franco. A Gianni piace la casa di Franco. La casa di Franco è accogliente, la casa di Franco è comoda, la casa di Franco è grande e giusto, la casa di Franco ha una bella posizione, la casa di Franco è piena di cose interessanti, la casa di Franco ha un bel terrazzo. Quante estati sul terrazzo della casa di Franco, quante risate l'estate sul terrazzo della casa di Franco, quanti amici e risate l'estate sul terrazzo della casa di Franco. Ognuno si sente a casa sua a casa di Franco. Gianni si sente a casa sua a casa di Franco. Rita si sente a casa sua a casa di Franco. Chiara si sente a casa sua a casa di Franco. La moglie di Michele si sente a casa sua a casa di Franco. Michele si sente a casa sua a casa di Franco. Anche se Michele non crede che la casa di Franco sia una casa così bella. Non è così bella la casa di Franco. La casa di Gianni è più bella. Gianni ci capisce in fatto di case. La casa di Gianni è un'anima vera. Hai mai visto la casa di Gianni? Dovresti vedere la casa di Gianni. Una volta ci andiamo insieme nella casa di Gianni. Gianni ha un cane in casa. Il cane di Gianni è l'anima della casa di Gianni. Anche Michele ha un cane in casa. Rita ha molti gatti in casa. Più gatti di Chiara, che non ha nessun gatto in casa. Più di Franco, che non fa entrare bestie nella sua casa. Che non vuole bestie di nessun tipo dentro e intorno alla sua casa. Né cani, né gatti, né coniglietti, né criceti, cavie, topolini, ratti, né tartarughe, gechi, lucertole, pulcini, canarini, parrocchetti, piccioni, tortore, colombe, passerotti, gabbiani, cornacchie, pesci, rossi, gialli, pesci gatto, pesci pagliaccio, farfalle, falene, mosche, moscerini, coccinelle, formiche, ragni, scarafaggi, zanzare, tignole, scutiggere, pulci, zecche, tarme, tarli, acari. Franco non vuole animali a casa sua. Franco non potrebbe mai vivere in una casa con degli animali. Gli animali in casa portano altri animali in casa. A casa di Franco il cane non lo puoi portare. A casa di Gianni, sì. Ovviamente questo è il punto in cui il bravo presentatore chiede se c'è qualcuno che vuole intervenire e fare domande. Prego. Certo. No, volevo fare un'osservazione, magari uno spunto di riflessione. Peraltro io ho letto il libro di Fabio e mi sono accorta di questa cosa soltanto ascoltando oggi la terminologia. E cioè che le persone, gli umani, no? È come se queste cose alla fine hanno sempre bisogno di un umano, cioè c'è sempre in questa costruzione linguistica, cioè nel modo in cui strutturi la frase, specialmente in quello delle tasche e anche in quello delle case, si torna sempre al fatto che ci sono gli umani, cioè la cosa, queste cose di cui parlavamo prima, queste cose in qualche modo cercano l'essere umano o il presunto tale, come baricentro, cioè, c'è sempre questo ritornare all'umano, quindi mi chiedevo, non so, mi chiedevo se questo ritornare continuamente sull'umano, sul Mario, sull'Arinoni di esseri umani, se è un artificio letterario che ti è venuto a livello proprio linguistico, come gioco linguistico, oppure se può darsi che dietro ci sta anche un tentativo di cercare un baricentro, un equilibrio in questo vorticare di cose che poi tornano all'esperienza della persona. E l'altra cosa che voglio dire proprio telegrafica è che fra i nomi io ci metterei anche Daniel Balestrini, ascoltando di adesso, poi più che mai su questo. Vabbè sì, Balestrini ovviamente non l'ho citato però perché c'è, insomma, c'è quasi scontato, sì, no? Nel senso, cioè, anche immagino sia il nome tutelare di, sì, anche se qui rispetto alle cose che scrivo normalmente magari mi sono allontanato secondo me su però, certe sì. cose, però ecco, ci ho pensato in questi giorni. Nanni Palestrini, c'è un testo in particolare che forse ho inconsciamente tenuto presente scrivendo questo qui, che è quello che si chiama, sembra, Il pubblico della poesia, che è un testo molto più colloquiale, molto più facile di più comunicativo, diciamo, più semplice, come che ho letto. Perché no, Alberto Pignotti? Lamberto Pignotti. Però Pignotti come artista visivo ce l'ho più presente io. Diciamo non ce l'ho presente invece quello di Balestrini. Non conosci Lamberto Pignotti? Sì, no, però come artista visivo non ho i testi, non l'ho. No, c'è un grande stima di Pignotti. Allora, su questa cosa dei nomi e dell'umano, diciamo che è da una parte un artificio come il tu, come l'io, in poesia per me sono comunque artifici, nel senso che servono a strutturare, a puntellare un andamento, cioè, anche sì, nel senso da una parte sono un artificio per ancorare il testo a delle a dei punti, però appunto anche nella lirica è un artificio, il tu, l'altro, l'io di oggetto d'amore, perlomeno io l'ho sempre acquisito come artificio linguistico per la costruzione dell'oggetto verbale della musica. Dall'altra penso che essendo cose altre cose, in questa dimensione qui anche loro sono cose, fanno parte di questo elenco di cose, quindi c'è Aldo, fra potrei fare un elenco di... Sì, nel senso altrove l'ho fatto, tra l'altro, cioè altrove nei miei cassetti a casa, un elenco dei nomi, di tutti i nomi, no? Aldo, Franco, Mario, Maria, cioè poi appunto più sono banali i nomi, più sono desueti, più mi sembrano potenti. Si specifica che i nomi, lei lo sa perché l'ha letto, però i nomi sono tutti scritti con la minuscola, sì. Anche i nomi propri, sì. Come sì. Le cose, appunto. Fanno parte dello stesso, sono livellati, sì, un sono po' allo stesso livello. Però ecco appunto sono comunque, no, poi mi interessava un po' questa la cosa della proprio, non dico contro, però diciamo in opposizione un po' alla poesia del soggetto, del soggetto dell'io, o una poesia narrativa che introducesse dei personaggi. Dei personaggi appunto perché il personaggio appartiene sì lateralmente alla poesia, nel senso che appunto è Pavese, stanno delle, c'è Pagliarani, chissà quanti altri che non conosco, insomma. Però la poesia siamo abituati a considerarla come il luogo del soggetto, che dell'io, appunto, del poeta, dell'autore, perlomeno dai romantici in poi, insomma, non prima. Questa è l'idea dominante, no? Invece l'idea che ci fosse una deriva narrativa mi piaceva, e quindi poi l'ho cominciato lì col testo Cose di casa, poi l'ho ripreso in altre più avanti, perché comunque questi personaggi, questi Mari, questi Aldo, questi Franco che ritornano mi piacciono, insomma. Però ecco, sono un po' cose anche loro, sono cose nella costruzione di una cosa che è la, che poi la cosa è la poesia, per me fare una poesia è costruire una cosa, è un oggetto. Immagine rispetto alla questione dello svuotamento, mi sono immaginata che so, come se con le due cose che hai letto, come se tu avessi scelto una parola su cui costruire il tutto, cioè in casa, tasca in questo caso, no? Cioè come se tu avessi fatto nell'operazione di svuotamento, mi escono delle parole con il setaccio, ne è rimasta una, cioè ne è cascata una, e poi da lì hai costruito, cioè questa immagine proprio del setaccio che toglie tutto, svuota, però rimane una cosa, su quella cosa tu ti aggrappi e costruisci una cosa, una poesia, non lo so, però non ho fatto pensare. A livello musicale è poco se scegli una nota su cui battere sempre, insomma. Sì. Tanto e poi se si tratta di comunque di tenere qualcosa, non può crollare tutto, quindi qualcosa ti devi appoggiare, insomma, per tenere. Però sì, insomma, un po' questo lo... Che mi fa un po' pensare al tuo lavoro invece dei collage, oppure lì c'hai delle lettere, ne scegli una, e lì poi magari riparti, cioè comunque ricostruisci qualcosa con una lettera o un pezzo, potrebbe esserci forse un po' di... ci può essere un legame in questo senso. Beh, sicuramente tutto è connesso. Però ecco, sui collage non so dire in questo momento, però sì, cioè nel senso c'è sempre un lavoro di tabula rasa nel mie, nel, comunque di distruzione e costruzione, quindi poi si, penso che c'è anche qui questo, questo da una parte usare una parola e distruggerla, ripeterla e abusarla fino a distruggerla, sempre rinnovarla. E così quando nel lavoro visivo si tratta un po' di fare la stessa cosa, di partire dai materiali preesistenti, usati, logorati o comunque che non mi dicono niente, distruggerli e distruggendoli dargli un nuovo significato, sottrarli alla loro retorica. Poi è un po' questo il discorso, sottrarre le parole alla loro retorica, e gli oggetti, sì, insomma, quelli, le immagini nel caso dei collage, o degli scotch o delle altre cose. Forse il metodo del collage si percepisce molto anche nel lavoro di Luciano Neri, nel senso che poi l'ha detto esplicitamente, questi frammenti, queste schegge di frasi e di brani e testi vari vengono aggiustati e inseriti in una struttura che poi nel suo farsi dà anche le regole del proseguire del libro stesso. Mentre non è senza significato, anzi è molto significativo l'esempio del pubblico della poesia riferimento a Balestrini come possibile eco, no? del modo di discorrere, appunto, discorsivo, e quindi parte da elementi comuni della realtà, quindi i nomi comuni, Aldo, Mario, eccetera, le cose comuni, quindi le case e altri oggetti, le chiavi, le monete, però poi su questo fa sviluppa un discorso che è più, diciamo, quasi un'interlocuzione nei confronti del pubblico. Io però, dagli appunti che avevo preso, vabbè, ma non è che voglio annoiare perché erano troppo, però mi piaceva di tutti e due notare questo procedere per effetti e non per effati, cioè non per aforismi e materiali citabili, come se si trattasse sempre comunque di letteratura, tra virgolette, anche senza virgolette alta con la maiuscola, pur essendo poi tutte e due i casi di libri da cui si possono trarre dei frammenti, delle schegge a loro volta citabili, anche a loro volta reinseribili in altre opere. E quali sono questi effetti? Sono effetti di cinema, di topografia, di flânerie, quindi di passaggio nella città e di gioco nel libro di Luciano, e di performance, di esecuzione, di classificazione e di elenco però criticato nel caso di Fabio. E poi per tutti e due chiaramente è un discorso che pertiene chiaramente in maniera elettiva all'elenco, che è quello paratattico, quindi quello dove per certi aspetti c'è l'accumulo più che lo sviluppo narrativo vero e proprio, anche se poi la narrazione c'è in tutte e due attraverso però questa spezzatura continua. E poi il discorso dell'iterazione intesa anche come ritorno, come il ritorno del già noto, del già detto, che però tutte le volte diventa ricerca del nuovo. Ecco, quando appunto si parla di scrittore di ricerca, si parla di scrittore di ricerca perché nel farsi dei testi nessuno dei due autori, a me in maniera diversa mi sembra che l'abbiano detto tutti e due, sapeva già dove sarebbe andato a parare. È il farsi del testo che magari viene da una pratica performativa nel caso di Fabio, e nel caso di Luciano viene invece da una pratica poetica, però diciamo radicalmente rovesciata, e nel farsi dei testi che i testi effettivamente scrivono se stessi, senza per questo però rinunciare, mi sembra anche giusta l'osservazione che è stata fatta, all'umano, ma non nel senso che vuole recuperare una presunta disumanizzazione che l'avanguardia sarebbe stata accusata di praticare, cosa che non è stato mai vero, perché non ci sono testi più pieni di umanità e di vita, di vissuto e di umano di quello dei Novissimi, ma proprio perché la disumanizzazione ci abbiamo davanti sotto gli occhi tutti i giorni, e questi testi qui ci ritornano nella maniera non assertiva che però è scritto di ricerca. Cioè non ti sto dicendo tu lettore come ti devi mettere nei confronti del testo da una posizione di crono in cui io ti do, come tutti gli editor danno ai loro adepti scrittori di romanzi di cassetta, e ti do tutte le regole per interpretarmi e per leggermi il mio testo, ma ti chiamo dentro il testo in un percorso che sto stesso facendo, perché io stesso sto ricercando quello che sto per dire, e il testo si scrive in questo modo qua. No, a margine di quello appena detto, hai usato il termine narrazione, E qui se c'è narrazione, la cosa curiosa è che viene sottratta dal tempo e spostata sullo spazio, appunto. E questo è curioso, no? Cioè, normalmente la narrazione ha bisogno del tempo, della temporalità, eccetera. Qui invece è tutto spostato su una costruzione di uno spazio lì, diciamo, a multipiano, chiamiamolo così, se mi permetti il termine, a strati quantomeno, in cui ogni strato è ha più spazi. Più temporalità diverse, Anche diciamo. contemporaneamente. Esatto. E tra l'altro c'è nel suo testo ritorna spesso la doppia congiunzione e o quella messa che si usa nel linguaggio burocratico, cioè, si usa, no? E cosa curiosa, torna continuamente, per cui mette le cose insieme o addirittura anche sul piano disgiuntivo, cioè nel senso possono essere convivere, torna spessissimo questa doppia congiunzione. Da là invece appunto la cosa, cioè l'oggetto che automaticamente costruisce lo spazio mentre viene nominato, quindi le case, cioè in particolare forse più di quello delle case è quello delle scatole. Con queste Sì. scatole che a un certo punto diventa qualcosa quanto di più astratto, incredibile, perché è incredibile, a parte dal fatto che devono mettere a posto, sistemare le cose, mettere a posto delle cose dentro le scatole colorate. E lì comincia un gioco incredibile, visivo, che ci si perde alla seconda pagina, più o meno, con le scatole rosa, marroni, in cui non si capisce mai qual è il criterio di classificazione, tra l'altro, perché dice no, lì metto le cose di un certo tipo, senza dire di quale tipo, cioè, e lì si costruisce uno spazio, di fatto, e quindi una narrazione. La dimensione del tempo poi ricompare nel momento in cui c'è la non performance, perché anche No. la performance prevede, no? Cioè l'attore che sta Tempo. lì e porge il testo anche con una gestualità che permette, insomma, no? Di partecipare emotivamente in maniera iper emotiva, anzi quasi, ma c'è un discorso di esecuzione e l'esecuzione si sviluppa sulla linea del tempo. Questo ricostruisce qualcosa mentre lo stato si progetta. Ci sono altri interventi? Voi vedete, cos'altro da aggiungere in chiusura? Posso disculpa. La vostra discolpa, esatto. Possiamo chiudere con un testo ancora? Sì. No, io solo una cosa che mi è venuta in mente ascoltando questa cosa della parola che è una cosa. Non so se te l'ho già detto che in ebraico la parola che vuol dire parola vuol dire anche cosa. Con questo chiude il cerchio perfettamente. Beh, Austin diceva fare cose Sì. con le parole. Vabbè, comunque quella volontà, sempre l'attenzione verso il libro, cioè nel senso anche se questo è un libro minuscolo, ma penso anche per lui si tratta sempre comunque di aspirare, quasi di mettere tutto dentro, quindi questa cosa è tutto, cioè nel senso è la parola che si carica di essere recipiente di, non so, usando magari esempio un linguaggio religioso, vaso di qualcosa, no? Cioè, questa è la terminologia del vaso si usa nella cosa, in qualche cosa di mistico, di esoterico, non viene la citazione esatta, però. Vabbè, basta. Allora, Ultima lettura. leggo l'ultimo testo così Sì. riavvolgo il nastro. Buonanotte. Dopo giorni con l'idea a monte di una passeggiata per i giorni a venire da un lato e dall'altro in un doppio senso e ritorno verso per gli anni indietro e in avanti su uno sfondo del campo appena tracciato di gesso, con l'idea di una sigaretta da fumare lungo il tragitto dell'idea che era apparsa da tempo e che prevede una sigaretta, metafora. Il cammino fino al belvedere con lo sguardo attento a ogni punto, immerso distante dai punti panoramici o dissolventi sovrapposti o sfocati, metafora. Rispetto alle solite forme, con l'idea a margine più attenta ai punti di ogni immagine che si sgrana come un'esplosione o si rigidisce fino a farsi ghiaccio in superficie, fino a farsi scheletro in ogni punto, metafora. Pausa con l'idea di cognizione maggiore dei particolari dei punti in superficie su uno sfondo illimitato senza regolare nitidezza, senza la risoluzione dei contorni di un contrasto, dell'attenzione a non sfuggirvi a lungo o irreparabilmente, metafora. Con l'idea dello studio a monte di idee fissate da punti, con il discernimento dubbioso che i punti delle immagini non siano sempre punti e che le immagini che li raccolgono e li uniscono in una forma non siano sempre immagini, con l'idea fissa che continua a circolare insieme all'orizzonte, al cielo e alle nuvole riconoscibili e riconoscibili, all'incastro dei vicoli sotto il fresco dell'ombra sotto gli alberi, all'orologio non lontano fino ai presupposti del telescopio e dell'occhio nudo per una migliore osservazione, e lì si rasenta il muro dell'East Side Gallery, metafora, insieme alle immagini che ne provano la vista di ogni punto per trasferirsi in quello stesso luogo, indietro con l'idea che si trascorrono le immagini in un luogo di quella stessa cornice, che ha pensiero a un tempo dell'accaduto in cui si trovano, i loro punti sgranati fino in fondo, invasori trasparenti, in avanti, il loro controllo pensante e il loro non pensante in contrasto nella risoluzione dei contorni, il loro pensiero bianco e lineare dei contorni e il loro non pensante nei contorni della risoluzione in un contrasto. Pensavo di leggere questa di sistemare le cose, sono troppo lunga. Massaggino. Allora, sistemare le cose. Allora questa cosa la mettiamo qui, nella scatola arancione. La scatola arancione sta lì, sotto la scatola verde, accanto alla nera. A questa cosa ci sono legato per tanti motivi, ma adesso non saprei che farmene. Le cose di questo tipo le mettiamo lì, come quell'altra laggiù. Anche quella va nella scatola arancione, in attesa di qualcosa. So che un giorno, per qualche motivo, la cercherò. Ecco, la scatola arancione è la scatola delle cose che un giorno, per qualche motivo, cercherò. Invece questa la buttiamo. Non so decisamente che farmene. È bello quando sei sicuro di qualcosa. Ecco, di questa cosa sono sicuro. Buttiamola subito, nella scatola nera. Dov'è la scatola nera? È là, dietro quell'arancione. Perché hai spostato la verde? No, quello non va nella scatola verde. Nella scatola verde ci vanno delle cose diverse, come quelle cose lì, con quella intensità. Quelle sì vanno nella scatola verde, ma non tutte. Ce ne sono alcune che vanno in quella rossa, quella cosa là, per esempio. La scatola rossa è grande il doppio della verde. Ci vanno cose più grandi. Anche le scatole nere sono grandi, ma le scatole nere sono poche. Bisogna buttare più cose. Ho bisogno di più scatole nere. Comprerò altre scatole nere. Questa cosa, invece, non so che fare. Sono indeciso se metterla nella scatola azzurra o nella scatola bianca. Dai, mettiamola nella scatola bianca. La scatola bianca è qui vicino, è qui, vicino alla rosa. Nella bianca ci mettiamo le cose così. Capito come? È facile. Quell'altra cosa, invece, va nella gialla. Non credo che ci siano molte altre cose che debbano andare nella scatola gialla. È un po' come la rosa. Le cose che vanno nella scatola gialla o rosa non possono andare in nessun'altra scatola. Né rossa, né verde, né nera, azzurra, bianca, marrone, arancione. Non ci può essere confusione. Tra scatola bianca e scatola azzurra a volte ho dei dubbi. Ho dei dubbi anche tra la scatola rossa, la verde e la marrone. E anche tra la marrone e l'azzurra, tra l'azzurra e la verde e l'arancione. Ci sono delle cose che mettiamo nella nera che poi potrei pentirmene e decidere di mettere nell'arancione o nella rossa o nell'azzurra. Per esempio, quella che prima abbiamo messo nella nera. Ho cambiato idea, va nella bianca. Con la rosa o con la gialla invece non mi sbaglio. Solo quel tipo di cose nella gialla, solo quell'altro tipo nella rosa. Sono cose inconfondibili. Non ce ne sono molte, le riconosci subito. Sono le cose inconfondibili. Allora, mi fermo qua. Se posso dire una cosa molto breve che mi è venuta in mente adesso, ascoltandoti, ho notato che poeta, non poeta, l'io, non l'io, la ricerca... La casa di Franco, di insomma, quando descrivi le case sono sempre degli altri. L'io che fa, il poeta, possiamo dirlo con te, poeta, perché con Luciano forse lo rinnega un po' come termine, e questo è un altro punto che volevo un attimo. Sono scrittore, comunque la parola giusta. Ok, però è interessante il fatto, e l'ho visualizzato adesso, che il poeta trasloca. O comunque la casa la mette in ordine, o sotto, cioè la sua casa è in movimento, c'è qualcosa che accade, non è in una situazione stabile. Questo mi era ascoltato adesso, anche perché lì non. Penso che sia, bisogna stare un po', bisogna destabilizzarsi e destabilizzare un po', no? Vabbè, poi ci stanno dei momenti insomma, delle problematiche reali, cantare casa, scatole morali. Luciano, io vorrei dire che spero che non si offenda, però io la trovo poetica come scrittura, poi se vuoi non lirica, se vuoi di poetica di ricerca, cioè per me, poi tutto il discorso che si apre come ti pare, però insomma ok, grazie. Allora, io ringrazio Luciano Neri e Fabio La Piana, ringrazio voi per averci ascoltato. Vi ricordo che i libri sono là se siete interessati, insieme ad altri testi delle edizioni TIC. Va sempre detto che c'è presente l'editore, naturalmente è in sala, quindi socio in bacchetta. Grazie ancora, buona serata.